dati sì, ovviamente scontano una presenza rilevante di lavoro nero, anche quella stimiamo, e circa un lavoratore su tre rischia di essere coinvolto nel mezzogiorno più o meno nell'economia sommersa. Però questo secondo noi non modifica i contenuti del divario, delle differenze tra nord e sud, anzi in fondo il lavoro sommerso è un'altra faccia del sottosviluppo, cioè noi non credo che si possano contare i lavoratori in nero come se fossero lavoratori irregolari. Il problema è la distribuzione del reddito, cioè noi siamo convinti che nel mezzogiorno, i dati lo testimoniano, c'è una distribuzione del reddito anche per effetto di economia sommersa e criminale molto diseguale, quindi abbiamo realmente situazioni di emergenza sociale in alcune aree molto molto rilevanti. Qualche sindaco del mezzogiorno faceva presente che comincia la fila delle persone che non più chiedono un posto di lavoro, ma molto spesso chiedono semplicemente una sovvenzione per soddisfare i bisogni primari.